fretta di concludere per non decidere, fretta di fuggire il più lontano per non deludere, fretta di soccombere per non combattere, fretta di andar giù, lambire il fondo per non riemergere. Una corsa tra la polvere, una vittoria non ti darà mai, ma che tradimento è, ma che tradimento è mai. Fretta di infischiarsene per non soffrire, a rinnegare il vento e il suo richiamo per non rischiare. Uno sguardo appena complice, una rivalsa non lo è stata mai, non è tradimento, sai. Quale tradimento poi, che dura poco, che dura un fuoco, che gira in eterno dentro un forno, fino al mattino, che dura un secondo, che dura un destino, che dura un sentiero buio, un lampo come un cerino. Fretta di portarsi via la croce per non pentirsene, fretta di scommettere, certo di perdere, fretta di ignorare anche il silenzio per non rimpiangere. Una spiaggia in solitudine, un cliché vecchio consumato ormai, dunque tradimento sia che non lasci mai la scia di un stanco, di un coniglio bianco che corre impaurito in cielo al passo di questo tango che giuri allo specchio, che sfuga lo sguardo un secolo. Travel.